La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci ancora insieme in questo secondo weekend d'agosto. Siamo ormai sotto il ferragosto che incombe, ma la rosa purpurea non vi lascia come tutti i fine settimana per raccontarvi, in questo caso, il poco cinema che c'è nelle sale cinematografiche a livello di novità. È la settimana più scarsa dell'anno, in assoluto questa, ma noi non ci perdiamo d'animo e abbiamo preparato per voi tanti contenuti che vanno a guardare oltre. Ci è sembrata la puntata giusta, la puntata di svolta, questo ferragosto che fa un po' da tornante della stagione cinematografica, che segna sicuramente la fine anche degli ultimi rimasugli di stagione di quella che si è conclusa e ci porta dalla prossima settimana in poi ad avvicinarci a quel mese di settembre nel quale col Festival di Venezia tutto ricomincia a livello cinematografico. E allora parleremo di tante novità in America, in Italia, i set, avremo ospiti di grandissimo livello, quindi puntata davvero importante e molto molto originale questa della Rosa Purpurea. Però cominciamo subito a entrare nel clima, come da tradizione, dei nostri temi, delle tematiche della nostra trasmissione, con i titoli di testa. Bassa stagione nei cinema italiani, altissima in quelli americani. Nelle sale d'oltreoceano arrivano i film che terranno banco fino alla stagione degli Oscar. Da Prometheus di Ridley Scott allo Hobbit di Peter Jackson. Carrellata di star per anticipare l'autunno del cinema. Le Olimpiadi volgono al termine. Continua il viaggio della Rosa Purpurea nella Londra cinematografica. Oggi lo sguardo di Chiara Pizzimenti si posa sui personaggi immortalati sullo sfondo della Londra in celluloide. Da Shakespeare a 007. Visita sul set de La variabile umana, esordio alla regia di un lungometraggio per Bruno Oliviero. Protagonista un Silvio Orlando in versione commissario, stanco e disilluso, che dovrà tornare sulla strada per un'indagine che vede coinvolta la figlia. Alla Rosa Purpurea l'intervista con l'attore napoletano. E nella prossima stagione del cinema italiano spazio anche a due progetti di Sergio Castellitto. Sentiamolo raccontare il suo ruolo dietro e davanti alla macchina da presa per Venuto al mondo con Penelope Cruz e di attore puro in Una famiglia perfetta, commedia firmata da Paolo Genovese. E allora cominciamo subito con Londra. La settimana scorsa, approfittando delle Olimpiadi che ormai volgono al termine, abbiamo varato una sorta di viaggio all'interno della Londra cinematografica. Lo abbiamo fatto con la Londra magica la scorsa settimana. Questa settimana invece Chiara Pizzimenti ci racconta un po' i personaggi che hanno fatto la fama di Londra sul grande schermo. Diamonds are forever. Ha viaggiato e agito in tutti i posti più belli del globo, ma il quartier generale, Miss Moneypenny compresa, è qui. 007 è al servizio di Sua Maestà da 50 anni e anche il prossimo film di James Bond, Skyfall, parte dalle rive del Tamigi. Paese, Inghilterra, arma, sparo, agente, provocatore, omicidio, lavoro, Skyfall. Skyfall. Fine. Ben prima degli agenti segreti c'erano i poeti a corte e si andava tutti al Globe Theater per le prove dell'ultima opera del bardo. Baci bene, molto. Bene, Will. È una fortuna che tu sia qui. Perché non scrivo io il resto della tua opera mentre sì, tu sì, ci fai vedere? Continuate ora alla nutrice. Dove sta Ralph? C'era una regina in questo Shakespeare in Love ben consapevole di quanto sia difficile imporsi in un mondo di uomini, come una sua discendente e omonima, Queen dal Giubileo di Diamante, molti secoli dopo. E come una Lady di Ferro. Venerdì 4 maggio è una data storica per la Gran Bretagna. Un governo conservatore con a capo la signora Thatcher guiderà... La signora Bandaranaike che nello Sri Lanka, la signora Gandhi in India. Ma in Occidente non c'è mai stata una donna primo ministro. Si è assicurata un posto nella storia della Gran Bretagna la prima donna invitata a formare un governo. Il privilegio di una delle più famose residenze del mondo, al numero 10 di Downing Street. Sei arrivata. Calma e sangue freddo. Dio salvi la regina, ma anche il re, nonostante i tentennamenti linguistici. La nazione crede che quando parlo, io parlo per lei, ma non so parlare. Potete farcela, non subiate la paura. Sarò il pazzo re Giorgio il balbuziente. Alzatevi, non potete sedere lì, alzatevi! Perché no, è una sedia. coppia e la sedia di Sant'Edoardo e la... La gente ci ha inciso dei nomi. Ascoltatemi, ascoltatemi! Perché dovrei sprecare tempo ad ascoltare? Perché io ho una voce! Tra l'altro, la lingua inglese non è così semplice. Un buon insegnante, però, può trasformare una fioraia in My Fair Lady. Perché l'inglese in Inghilterra non si sa. Si parla in tutto il mondo, ma non si parla qua. E se voi parlaste come adesso parla lei, fareste la fioraia pure voi. Per l'amor di Dio. Londra può avere frequentazioni particolari, piccoli Oliver Twist, lupi mannari americani in trasferta, barbieri alla Sweeney Todd e squartatori di nome Jack. Sotto l'epidermide della storia pulsano le vene di Londra. Questi simboli, la squadra, il pentacolo, anche un individuo profondamente ignorante e depravato come voi avverte che si sono pregni di energia e di significato. Ma a risolvere tutto, per fortuna, arriva Sherlock Holmes, direttamente dal 221B di Baker Street. Qui, nella versione con Jude Law come Watson e Robert Downey Jr. nei panni dell'investigatore. Signor Holmes, deve aprire gli occhi. Lei sottovaluta la gravità di quello che sta per accadere. Domani, a mezzogiorno, il mondo che conosci svanirà. Beh, allora non c'è tempo da perdere. E Chiara Pizzimenti concluderà il viaggio cinematografico a Londra la prossima settimana con le zone, i quartieri raccontati dai film. A questo punto viabilità e fra poco torniamo insieme per aprire una finestra su tutti i grandi film della prossima stagione, dando un'occhiata alle loro uscite che sono proprio da questo momento in poi nel mercato degli Stati Uniti. A fra poco. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea. Allora, come vi abbiamo detto in apertura di trasmissione, adesso dedichiamo tutta questa parte del nostro programma, tutto questo blocco, ai film, alle novità americane, a film che sono appena usciti o stanno per uscire in America, negli Stati Uniti, dove la stagione estiva è l'inizio della grande corsa che poi porterà durante l'autunno verso gli Oscar. E quindi con Boris Sollazzo vi racconteremo un po' prospettive, un minimo di trama, attori, registi impegnati nella grande stagione estiva americana, anche per farvi venire un po' la culina in bocca e invitarvi poi a proseguire, insomma, durante l'autunno con l'attesa di questi che sono alcuni tra i film più importanti della stagione. Intanto salutiamo Boris Sollazzo che è con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quasi prossimo a Ferragosto anche il nostro Boris. E allora, abbiamo approfittato in questa puntata, come dicevamo, nella quale in Italia esce poco nulla, per fare un tuffo al di là dell'oceano e guardare un po' cosa accade in America. E vogliamo cominciare con la presentazione. Cercheremo di andare in ordine cronologico, da film che sono appena usciti a film che stanno per uscire, via via andare a quelli più lontani. Dicevo, cominciamo con uno dei film che, almeno per quanto mi riguarda, è uno dei film più attesi di tutta la prossima stagione, perché amando io, forse in maniera un po' d'antan, un po' 70 se vogliamo, la fantascienza, quella lì con le astronavi per intenderci, chiaramente non vedo l'ora di vedere Prometheus di Ridley Scott, film di fantascienza che usa il genere della fantascienza senza troppe commistioni, un film che tra l'altro ha un cast importante, su tutti ci metto Michael Fassbender ovviamente, ma anche Noomi Rapace è ormai un nome importante, poi ci sono tanti altri attori, fra cui Charlize Theron, e dicevamo, Boris, un incontro con un genere che da qualche tempo non veniva proprio frequentato in pieno, oppure se veniva frequentato dal cinema americano lo era sempre con qualcosa, una commistione di generi, una contaminazione che spesso fa bene, ma insomma ci piace anche vedere la fantascienza che è solo fantascienza. Sentiamo allora prima questa clip, ovviamente in lingua originale, di Prometheus. You know what this place is? Hell. Before Alien, there was Prometheus. I didn't think you had it in you. Sorry, poor choice of words. Prometheus. Rated R. E allora, Boris, cosa possiamo dire di questa nuova fatica di Ridley Scott, uno che insomma di fantascienza se ne intende? Beh, Prometheus fortunatamente l'abbiamo anche visto, perché se l'Italia, con la solita scelta distributiva abbastanza discutibile, che appunto vede nell'estate un buco nero, lo vedrà solo ad ottobre, negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa, e invece questo è uno dei titoli estivi su cui si è puntato, insomma, anticipando anche quello che sarebbe stato l'uscita di Batman. Qua parliamo addirittura di un'uscita a giugno. Il film, come dici tu, è una delle rare scommesse sulla fantascienza pura. Sembra che solo gli autori di grandi classici, diciamo, i grandi registi del passato ma anche del presente, come Ridley Scott o James Cameron, abbiano il coraggio di puntare su questo genere in maniera pura. Gli altri cercano sempre la commistione, in qualche modo alla Duncan Jones, usarlo come specchietto per le allodole, anche molto bene. E Prometheus è di fatto un prequel di Alien, o comunque uno spin-off di Alien, come volete chiamarlo. Dà a Noomi Rapace il terribile compito di sostituire Sigourney Weaver. Lei, secondo me, offre anche una prestazione dignitosa, ma come in qualche modo chiedere a un numero 10 di prendere il posto di Maradona è molto complicato esserne all'altezza. Il film, io devo essere sincero, è un po' deludente, a mio parere, perché Ridley Scott rimane invischiato soprattutto all'inizio in un discorso tra creazionismo, darwinismo, evoluzionismo che appesantisce il film, lo rende molto lento, e quando insomma esce fuori l'anima di Scott, l'anima più action, l'anima più forte, in qualche modo è un po' troppo tardi. Onestamente anche i cattivi non sono proprio molto affascinanti. C'è una scena pazzesca che è una sorta di parto cesareo, anzi è un autoparto cesareo di Noomi Rapace, che sicuramente entrerà nella storia di Ridley Scott e anche del cinema. C'è un Fassbender che ormai non ne sbaglia più una, perché qui è una sorta di Al 9000 personificato, un androide tra l'altro con le mesh bionde, e abbiamo scoperto che è talmente dotato Michael Fassbender che riesce a interpretare anche i robot, e riesce a interpretarli da Oscar, e lui tiene, come dire, in piedi il film, a mio parere lo rende interessante fino alla fine. È un film che invece molto spesso si rifugia nella noia, quindi è un po' una delusione rispetto alle grandi aspettative che tu stesso hai, però di sicuro un grandissimo progetto che sicuramente tutti aspettano e che in Italia arriverà probabilmente per ultimo rispetto a tutti gli altri paesi. Bene, riparleremo quando uscirà. Sospendo personalmente il giudizio, ne riparleremo quando lo vedrò qui in Italia. Andiamo avanti con The Bourne Legacy, un'altra delle novità della stagione Oltreoceano, il quarto film dell'omonima serie cinematografica tratta dai romanzi di Robert Ludlum. Alla regia, cioè, questa volta c'è Tony Gilroy, e ancora una volta seguiamo le gesta dell'agente Jason Bourne. What's your name? Kenneth Gibson. There is nothing that you wouldn't do for this country. Who the hell is he? He's an outcome agent. We have never seen evaluations like this. Jason Bourne was the tip of the iceberg. Insomma, si spara molto, avete capito, in questo film. Boris, la continuità rappresentata da Tony Gilroy, che esordisce dietro la macchina da presa in regia di questo film, era già sceneggiatore dei precedenti. Invece non c'è più Matt Damon. Non c'è più Matt Damon, in qualche modo forse serviva proprio per tenere in vita il progetto, la saga, che tra l'altro è finita neanche 3 settimane fa, il lavoro sulla post-produzione, quindi diciamo è veramente recentissima. Non poteva che essere data dallo sceneggiatore, perché era una sfida molto difficile, insomma, e di fatto questo quarto capitolo è uno spin-off a tutti gli effetti. Ovviamente agli italiani va spiegato bene, quindi nel manifesto c'è scritto non ce n'è solo uno, e infatti c'è Jeremy Renner, che è una sorta di cugino di Bourne, che affronta il lavoro di agente segreto e diciamo di macchina da guerra umana nella stessa palude in cui c'era il fratello maggiore, il cugino maggiore, il collega Jason Bourne. Lo fa in mezzo a tantissime nemici, ma i nemici peggiori come al solito sono all'interno di chi invece dovrebbe difenderlo, quindi CIA, quindi agenzie governative, insomma la spy story, ed è stato proprio Bourne forse ad inaugurarlo, ormai è diventato l'ossessione della dietrologia, l'ossessione del complotto, il peggio può venire da chi dovrebbe esserti alleato. In questo caso è personificato nel più classico degli attori ambigui, tra virgolette, sicuramente da un uomo che fa del male convinto di fare del bene. Parliamo di Edward Norton, che secondo me torna ad ottimi livelli come capacità di interpretare un personaggio difficile. Si inserisce, come lui ha fatto anche in altre occasioni, in un blockbuster abbastanza bene, e Tony Gilroy diciamo disegna poi questa spy story in maniera forse un po' scolastica, però decisamente efficace. In America esce a fine estate, noi in questo caso per fortuna non facciamo molto ritardo, appena un paio di settimane, quindi attorno al 14-15 settembre dovrebbe essere in Italia. Allora, abbiamo ancora poco tempo, però vogliamo approfondire ancora qualche film. Intanto diciamo che fanno parte della stagione un paio di film sempre molto attesi, come On the Road. Se ne è parlato tanto di questo film tratto dal capolavoro che ha, se vogliamo, influenzato più di una generazione, ha sicuramente cambiato, è stato il manifesto di una generazione della Beat Generation, appunto On the Road di Jack Kerouac, e quindi questo film che sta di cui si è parlato molto e che sta poi per arrivare anche sui nostri schermi nel prossimo autunno, ma arriverà nel prossimo autunno anche il nuovo episodio della ormai interminabile saga dell'agente 007, si intitola Skyfall, e ancora una volta Daniel Craig impersonerà l'agente segreto al servizio di sua maestà, con Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem, insomma una roba esagerata come sempre nel cast. Però io voglio adesso farvi ascoltare e poi sentire il parere di Boris Sollazzo, farvi ascoltare il trailer, un pezzo del trailer di un altro film che secondo me, così a naso, potrebbe essere il campione di incassi della prossima stagione in assoluto, ovvero L'Hobbit. My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bilbo Baggins, I'm looking for someone to share in an adventure. E allora avete sentito le prime atmosfere di questo bellissimo trailer, tra l'altro, dello Hobbit. Anche qui siamo in atmosfera prequel, sempre Tolkien la base letteraria, sempre Peter Jackson quella cinematografica, torna la saga del Signore degli Anelli. Boris? Beh, cosa dire, l'Hobbit ha avuto peripezie di ogni tipo, sembrava non doversi fare, poi si è deciso di farlo. A un certo punto è scattata la voce incontrollata che sarebbe stato addirittura il primo film in 4D con l'olfatto messo in gioco come senso all'interno delle sale cinematografiche. Era una straordinaria bufala. Poi addirittura su internet è scattata la battuta molto divertente del fatto che l'uscita in tutto il mondo era prevista per il 22 dicembre. Non era un problema perché nessuno lo avrebbe visto, come tutti immaginavano, perché il 21 dicembre sarebbe finito il mondo. Non è vero, ma ci credo, la casa di distribuzione l'ho anticipato di una settimana ed esce il 14 dicembre, quindi anche se mai hanno ragione, ci sarà occasione per vederlo per una settimana, insomma, potrebbe essere a giudicare a naso dal lavoro che è stato fatto da Peter Jackson e tutta la sua equipe, perché ormai è una piccola città viaggiante, nonostante, come dire, le informazioni siano comunque molto, è stato un set protetto, c'è stata molta difficoltà nel reperire informazioni, l'attesa è grande e si immagina che questo prequel del Signore degli Anelli sia comunque all'altezza dei precedenti, sebbene ricordiamolo, insomma, è un prequel fino a un certo punto, cioè un'opera autonoma, è un'opera che potrebbe portare molte sorprese negli appassionati della saga, soprattutto di quelli che si sono avvicinati a Tolkien attraverso il cinema e non il contrario. Quindi grandissima attesa, Vedremo il 14 dicembre. Non vedo l'ora di vederlo anch'io, che non ho amato particolarmente la saga del Signore degli Anelli. Voglio dire, ne ho ammirato la grandezza cinematografica, la magnificenza. Non è un genere che mi scalda il cuore in generale, però questo invece, dal trailer almeno e dalle cose che ho letto, è un film che ho voglia di vedere. Questo forse potrebbe anche essere, chissà, forse un segnale che qualcosa di più universale potrebbe succedere, qualcosa che vada ovviamente oltre il già sterminato popolo del Signore degli Anelli, che non vede l'ora di andare al cinema per questo film. Ricordo che nel prossimo autunno si chiuderà anche, qualcuno dice finalmente, altri si scioglieranno in lacrime, un'altra saga che ha segnato, comunque si piaccia o non piaccia, a fuoco questi ultimi anni, ovvero quella di Twilight con Breaking Dawn parte seconda, e quindi finirà questa storia cinematografica, questo appunto nel mese di novembre. Insomma, vi abbiamo dato così a spizzichi e bocconi in alcuni casi, più approfonditamente in altri, conto di quelli che sono i grandi titoli da segnarsi per la prossima stagione, prima americana, poi internazionale, quindi italiana. Grazie a Boris Sollazzo e buon Ferragosto. Grazie a te Franco, segnalo solo una piccola curiosità: Kristen Stewart, dopo averla vista tante volte casta, in questa stagione finalmente ci darà la pazza gioia, perché in On the Road lo fa con uno, due e anche due persone, e in Breaking Dawn finalmente coronerà in tutti i sensi, anche fisicamente, il suo sogno d'amore con Robert Pattinson, perché la trasformazione non creerà più pericoli. E allora aggiungo che sembra che si sia data la pazza gioia anche dal vivo, perché ha avuto, pare, una liaison interessante con il regista di Biancaneve il Cacciatore. Pare che Pattinson non ci sia rimasto particolarmente bene. Insomma, Kristen Stewart sicuramente protagonista della prossima stagione sul grande schermo e anche nella vita privata. A presto. E allora adesso andiamo alla regia, però fra poco torniamo, perché apriamo di nuovo il nostro cantiere, le nostre visite sui set, il cinema italiano che verrà, tanti ospiti ancora da sentire, da Enzo Dalò che ci racconta il suo Pinocchio, a Silvio Orlando per La variabile umana, a Maurizio Casagrande, a Sergio Castellitto. Restate con noi. Ed eccoci alla terza parte della Rosa Purpurea. Entriamo nel magico mondo delle anticipazioni sulla prossima stagione cinematografica del cinema italiano. L'abbiamo fatto cominciando la settimana scorsa il nostro percorso e scoprendo il nuovo film di Eugenio Straffi, Gladiatori di Roma. Vi avevamo promesso che saremmo tornati sul tema dell'animazione italiana, che sembra poter avere una stagione importante per quanto riguarda appunto l'anno cinematografico che si apre dopo il Festival di Venezia. E ricominciamo proprio da lì, proprio dall'animazione, con un personaggio molto molto significativo dell'animazione italiana della fine degli anni 90. Stiamo parlando di Enzo Dalò, insomma un nome a cui è legato uno dei successi dell'animazione italiana più importanti di tutti i tempi, La Gabbianella e il Gatto, ma ricorderete anche La Freccia Azzurra. È stato Dalò un animatore italiano che ha lasciato il segno. Poi però varie vicissitudini hanno portato la sua casa di produzione a così non riuscire più a dargli l'opportunità di uscire con nuovi film d'animazione. Adesso arriva un progetto cullato veramente a lungo da Dalò. Pensate, dal 1999 che Enzo Dalò pensava, scriveva, lavorava al progetto di Pinocchio. E direte, ancora Pinocchio? Sì, ancora Pinocchio, perché Pinocchio è un progetto immortale, un progetto senza tempo, che ogni tanto qualcuno nel mondo rispolvera in animazione, in live action. Questa volta, tra l'altro, siamo di fronte a un Pinocchio veramente artistico, con i disegni di Lorenzo Mattotti, una delle matite più colte e affermate in tutto il mondo, con le musiche di Lucio Dalla. Ci sarà un cast vocale di tutto interesse. Insomma, davvero un Pinocchio formato esportazione, questo di Enzo Dalò. Noi lo abbiamo intervistato a Riccione alle Giornate Professionali del Cinema. Sentiamo l'intervista. Un nuovo film di Enzo Dalò. Diciamo che parti da qualcosa, da una materia estremamente conosciuta e forse proprio per questo estremamente difficile, perché oggi dare una lettura di Pinocchio, insomma, ce ne vuole. Qual è stato il tuo approccio a questa cosa? Intanto certamente è un'opera difficile, perché poi c'è il confronto, no? Abbiamo, non dico il numero perché me ne dimenticherei qualcuno, c'è una quantità di film fatti su questa storia. Me li sono guardati tutti, devo dire, per cercare di capire in che modo trovare una chiave diversa. Intanto abbiamo lavorato con Lorenzo Mattotti, i cui disegni ci garantiscono già un'originalità assoluta e che si stacca completamente da tutto quello che si è visto fino a ieri. Poi ho lavorato molto sulla storia, anche grazie al fatto che nel 2000 io già ero pronto a partire con questo film, poi Benigni annunciò il suo e mi sembrava da pazzi, e la Rai, che è partner dell'operazione, si fermò, ci disse fermiamoci, aspettiamo tempi migliori. E quindi ci ho scritto, ci ho lavorato, ci ho riflettuto, ho cercato il più possibile di trovare le chiavi di lettura di un'opera che secondo me è piena di sfaccettature e non è affatto superficiale, anche perché è il libro più letto al mondo dopo la Bibbia e il Corano, e ci sarà pure un motivo, più letto e più tradotto. A quel punto ho chiesto a Lucio Dalla di scrivere le musiche, e Lucio Dalla ha accettato, ha letto la sceneggiatura, gli è piaciuta tantissimo. Abbiamo lavorato insieme per 3 anni, in cui si scriveva lo storyboard, si disegnava lo storyboard e poi dopo si aggiungevano pezzi di musica, perché ci sono tante canzoni, quindi c'è stato bisogno di un confronto continuo tra il musicista e quello che noi andavamo a creare, perché come tu sai l'animazione è tutto un lavoro di costruzione, ma ci deve essere qualche cosa di preesistente, che nel nostro caso erano le voci e le musiche. E poi ho ripescato, siamo spostati con tutta l'equipe in Toscana, abbiamo lavorato a costruire proprio la storia, i disegni, i colori dalla Toscana, tra la costa e l'immediato entroterra. Abbiamo girato paesini come Bibbona, Casale Marittimo, e anche in questo credo che molto facciano i disegni di Mattotti, che traducono e interpretano una realtà che è il paesaggio toscano. Chissà perché, mentre parlavi di canzoni, mi viene in mente il Pinocchio, il mitico Pinocchio Disney. Poi però la Toscana mi veniva in mente quello di Comencini. Ti sei ispirato a qualcosa, dico come spirito, come per esempio da quello di Comencini usciva la grande povertà dell'Italia di quegli anni, no? Si sentiva il freddo di quei posti. C'è qualcosa che ti ha fatto mirare verso qualcuno dei capolavori, dei Pinocchio capolavoro del passato? Ma io ho cercato di essere il più originale possibile anche da questo punto di vista. Vorrei che poi il pubblico riconoscesse in qualche modo la metafora di una situazione attuale, di una situazione. L'animazione ci aiuta molto a raccontare delle storie in cui il pubblico si immedesima. Ecco, credo che nel mio Pinocchio ci sia questo tentativo, poi sarà il pubblico a dire se ci sono riuscito. E per quanto riguarda l'equilibrio fra i personaggi, tutto rispettato alla lettera o hai rafforzato qualche spalla magari? Cioè... È tutto rispettato alla lettera, certamente ci sono quei cambiamenti legati al fatto che stiamo facendo un film, mentre il Pinocchio di Collodi è una successione di avvenimenti cronologici, è quasi un diario, soprattutto quasi l'inizio di una serie televisiva, perché il Pinocchio ricomincia sempre da capo nei suoi viaggi. Ecco, questo ho cercato di costruire una struttura drammaturgica in modo che il Pinocchio avesse un'evoluzione dall'inizio della nostra storia fino alla fine. Dei film che ho fatto, questo è quello che ha l'animazione più bella, perché abbiamo lavorato per primi con una tecnica paperless, come dicono gli altri, una coproduzione intanto con il Lussemburgo, il Belgio e la Francia, quindi anche un'operazione che coinvolge 4 paesi. Abbiamo messo in piedi degli studi in grado di lavorare, come dicevo, senza carta, quindi non c'è più matita, non c'è più carta, si lavora tutto con la tavoletta grafica, e questo ci ha permesso, perché si dice sempre che il computer fa risparmiare, in realtà il computer fa spendere di più, infatti, perché? Perché ho potuto sviluppare tutta una serie di tecniche di costruzione di disegno che non avrei potuto fare con la matita e la carta. Una cosa invece sul cast vocale, perché ho visto che hai fatto delle scelte abbastanza particolari, insomma. Beh, sono scelte interessanti. Devo dire che in tutti i film che io ho fatto abbiamo sempre costruito dei cast centrati. Mi ricordo La Freccia Azzurra con Dario Fo e Lella Costa, e poi nella Gabbiana del Gatto con Carlo Verdone, Luis Sepulveda stesso che faceva, aveva il ruolo del poeta. E ad oggi appunto abbiamo un mangiafuoco strepitoso che è Rocco Papaleo, è stato simpatico e divertente, Paolo Ruffini che fa il Lucignolo, e poi Andy Luotto, Maurizio Micheli e Mari Claffatato che fanno il Gatto e la Volpe. E poi c'è un bambino, il protagonista, perché poi in tutta questa vicenda è Pinocchio, che è dall'inizio alla fine della storia, ed è Gabriele Caprio. Lorenzo Dalò ai microfoni della Rosa Purpurea per raccontarci il progetto di questo Pinocchio, un progetto davvero che attendiamo con grande, grandissima così, trepidazione, perché si scomoda un simbolo vero dell'Italia, della cultura italiana, come quello del personaggio creato dal Collodi. Tra l'altro sarà distribuito il film nelle sale cinematografiche dalla Lucky Red. Andiamo avanti, un altro progetto, un altro film, cambiamo genere, usciamo dall'animazione, buttiamoci nel giallo, un altro genere che l'Italia sapeva fare molto bene 30-40 anni fa, una vera e propria stirpe di registi di gialli, di cui Dario Argento ovviamente è stato solamente l'episodio più altisonante, ma insomma erano davvero tanti. Il nostro cinema di genere sapeva muoversi molto bene, poi abbiamo un po' dimenticato questa capacità di fare cinema d'industria, ci siamo messi a fare cinema due camere cucina. Forse sta ritornando anche l'idea che il genere va frequentato, perché può davvero funzionare, come dimostra per esempio il cinema spagnolo. E allora perché diciamo questo? Perché fra i film della prossima stagione cinematografica vedremo anche un film interamente girato a Milano. Proprio in queste settimane si stanno concludendo le riprese. Si intitola provvisoriamente La variabile umana, ma ci hanno detto i produttori, Lionello Cerri in testa, che non è detto sia questo il titolo definitivo. Lo dirige, opera prima di finzione, Bruno Oliviero, che però è un quarantenne napoletano molto tosto, con tanti documentari alle spalle. Protagonista assoluto Silvio Orlando, nei panni di un ispettore, e alle prese con un weekend davvero molto particolare, un ispettore che voleva uscire dai giri, che non se la sentiva più per vari motivi, non amava più il suo lavoro, ma che si trova di fronte a qualcosa che lo porterà a dover scendere in campo nuovamente in prima persona. E allora cominciamo con l'ascoltare, proprio per presentare La variabile umana, il protagonista Silvio Orlando. Beh, guarda, molto, molto brevemente, sì. Intanto un'inquadratura di questo poliziotto, no? Sì. Un po' letterario, un po' chandleriano da una parte, dall'altra mi viene in mente Scerbanenko, no? Questi poliziotti un po' che hanno qualcosa dietro, un qualcosa di torbido, e che a un certo punto devono fare i conti con se stessi. No, è semplicemente un uomo che probabilmente è afflitto dalla malattia di questo inizio secolo, di fine secolo, forse di sempre, che poi adesso la chiamiamo, che si chiama depressione, forse. È solo un uomo con una forte depressione, semplicemente un uomo spezzato in due da un avvenimento familiare, cioè la morte della moglie, da questo rapporto con questa figlia che non riesce a capire, con la quale non riesce a dialogare, o la quale non riesce a venirne a capo, insomma. E quindi contemporaneamente appunto fa un lavoro che non ama più, che non riesce più a fare, c'è un grado di sopportazione minimo rispetto alle cose che gli succedono. Questo, ecco. Hai parlato di un luogo sottoutilizzato sostanzialmente e anche un po' sottostimato, mi pare di capire. Cominciare da voi. vabbè, insomma, da chi vi ci vive, insomma, è un posto da cui scappare, insomma. Il weekend a Milano sono terribili, perché insomma nessuno, pochi rimangono, tutti cercano vie di fuga. È un posto dove praticamente vai per prendere e poi andare via, ecco, in modo molto strumentale, a cominciare da me. Insomma, sono venuto qui che non ero praticamente niente, avevo una mia piccola preparazione professionale, ma avevo pochissimo. Qui ho avuto tutto quello che mi è servito, e dopodiché spesso uno dimentica, non è riconoscente, che è una cosa bruttissima. Così come me, centinaia di persone hanno trovato qui un clima giusto, un clima serio, un clima fattivo, un fare le cose che si possono fare, non fare quelle che non si possono fare, quel pizzico di severità che forse manca al resto d'Italia. Quindi è un luogo dove io torno sempre volentieri, dove penso che poi alla fine in qualche parte del mio cervello credo che finirò la mia carriera dove l'ho cominciata, ecco. È un luogo anche che ha generato questa cosa dove ci troviamo oggi, cioè questa scuola Paolo Grassi, che ha regalato questo film una studentessa, una giovane attrice. Com'è stato e com'è in questi primi giorni, insomma, a rapportarsi con lei, lavorare con lei? Ma lei viene da una disciplina che solo di, insomma, tangenzialmente ha a che fare con la recitazione, che è il teatro danza. Però come tutto quello che ha a che fare con la danza e quindi con la musica ha delle forme di disciplina che nel teatro forse scarseggiano, diciamo. Quindi è una ragazza molto seria, molto volitiva, molto sembra, perlomeno la conosco poco perché poi in realtà siamo da una settimana stiamo lavorando, però la sensazione che ho avuto è che sa sentire, ascolta e cerca di restituire quello che può. Che è quello che deve fare un attore poi alla fine, semplicemente. Poi spesso si fa il giro del mondo per cercare la semplicità di un atto recitativo che è quello, cioè cercare di capire la storia, starci dentro, ascoltare il regista e restituire semplicemente quello che il regista ti chiede. Ecco, lei la fa con naturalezza, ecco. Ti chiedo un'ultima cosa, Silvio. Un'intervista che avevamo fatto a Venezia, mi sembra fosse per il film di Avati, tu mi avevi detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè per la mia generazione comincia a diventare difficile trovare i ruoli, cioè il cinema italiano non offre tantissimo per un attore che ha intorno ai 50 anni, diciamo. È cambiata la situazione? Ma no, non è il cinema, è il cinema in generale, sai, il cinema racconta il grande romanzo di formazione, cioè un essere umano messo a in formazione, appunto, che viene alle prese con un evento più grande di lui e per cui si racconta questo movimento umano. E come risulta cambiato alla fine di quel percorso? Lui, insomma, a 50 anni quello che è fatto, diciamo, quindi diventa tutto molto più tragico, insomma, tutto meno ti assolvi di meno, insomma, e diventa tutto forse meno interessante, meno seduttivo. Però insomma, però poi insomma, poi ovviamente ci sono le meravigliose eccezioni, insomma, di attori straordinari che hanno fatto carriere lunghissime, eterne, insomma, Clint Eastwood, Paul Newman, insomma, poi i grandi attori poi sono quelli che rimangono e che riescono a portare attraverso la propria faccia, il proprio corpo, a raccontare tutte le storie che hanno raccontato in un secondo. Insomma, noi siamo allievi di quella scuola lì, cerchiamo di arrivare là. Silvio Orlando alla Rosa Purpurea per parlare del suo ruolo nella Variabile Umana di Bruno Oliviero, prossima stagione cinematografica sui grandi schermi d'Italia. Ora Viabilità, fra poco torniamo a presentare altri due film. Ci sarà con noi Sergio Castellitto che ci racconterà una coppia di film in preparazione. Ci sarà anche Maurizio Casagrande che forse ci porterà una vena di commedia, quella Rosa Purpurea, fra poco. E siamo alla quarta parte della Rosa Purpurea in questo agosto 2012, tutta proiettata sul nuovo cinema che verrà, sul nuovo cinema italiano che dal prossimo mese di settembre, dopo il Festival di Venezia in poi, popolerà le nostre sale. Tante le nostre interviste esclusive sui set o agli incontri professionali di Riccione. Adesso parliamo di Maurizio Casagrande, parliamo con Maurizio Casagrande, volto noto della televisione, del cinema, della commedia italiana, volto noto di tanti film di Vincenzo Salemme, che esordisce alla regia con un film che si intitola Una donna per la vita, un film che sarà nelle sale cinematografiche, questo ha già una data di uscita, il prossimo 21 settembre. Commedia sentimentale nelle corde di Maurizio Casagrande, un uomo sposato, una coppia in crisi, un amico con il quale sfogarsi e decidere che insomma si vuole rompere il proprio matrimonio. Ma è proprio lì che comincerà una nuova vita per il protagonista. E allora andiamolo ad ascoltare Maurizio Casagrande. Eccoci qua. Allora Maurizio. Eccolo. Esordio alla regia, ho letto. Sì. Sì, insomma, sì. È una cosa grossa. È una casa grande, una cosa grande. Cioè, è un percorso che arriva, sai, quando si maturano le cose da sole, credo sia il modo migliore di affrontare cose difficilissime, perché fare una cosa del genere come lo fa da folli. E dico sinceramente, non ne avevo bisogno, però mi sono accorto che scrivere e realizzare un film è una delle cose più belle che si possa fare in una carriera, quindi sono felicissimo di esserci arrivato quasi per caso, ma felicissimo adesso da dentro di averlo fatto. Senti, dalle poche righe sul listino, è una commedia che rispecchia, come dire, la commedia all'italiana della quale tu sei un figlio, insomma, no? Assolutamente sì, anche se è un film che contiene, o meglio, è contenuto all'interno di un film vagamente diverso, quindi insomma c'ha una piccola sorpresa. Mi piace il cinema che sa tenere lo spettatore sempre attento, costringerlo a seguire anche i momenti che, diciamo, per loro natura sarebbero i momenti descrittivi, i momenti in cui devi raccontare qualcosa che serve a preparare altri momenti. Il film è costruito con l'intento, poi non è detto che ci sia riuscito, di mantenere sempre altissimo l'interesse, e quindi ho giocato un po' anche con i generi, un pochino, ovviamente senza esagerare. Senti, non ci dire la sorpresa, però qualcosa sul film raccontaci. Sì, è una storia d'amore, di un amore stanco e in grande difficoltà, che è quello con Marina, il personaggio che interpreta magistralmente Sabrina Impacciatore, e un rapporto stanco, un caso, un incidente fa sì che i due si lascino, perché c'è una rottura fisica anche, cioè c'è un momento di si dividono i due, e io da una parte che cerco disperatamente di sfuggire a questa donna che però invece mi perseguita per riconquistarmi, in mezzo Neri Marco Re, il migliore amico di entrambi, nonché il dottore che ci cura queste piccole ferite che abbiamo avuto, una gamba lei, io ho avuto una botta al collo, insomma, quindi, e l'incontro con la magia di una donna splendida che è Margaret Mathé, che mi porta in un mondo fatto di cose bellissime, fantastiche, una donna dolce e bella, però come spesso accade non sempre le cose sono come sembrano. Ecco, come dire che nella vita ti si chiude una porta, ti si apre una finestra o viceversa. Esattamente, esattamente. Può succedere questo, ma alcune volte ti accorgi che la vera porta era la finestra. Questo è interessante. Senti, domanda di prassi per uno che esordisce alla regia, anche con tanta esperienza comunque come te. Cosa ti sei portato dietro della tua carriera di attore in questo tipo di film, nello specifico? E se c'è qualche regista dal quale hai attinto un po' di più di quelli con cui hai lavorato? Io credo da tutti, sia quelli bravi che quelli non bravi, perché io credo che la carriera di una persona in qualunque campo sia il punto di maturazione, è quello dove tu riesci a raccogliere tutto quello che hai fatto e riuscire a capire quello che ti è piaciuto e quello che non ti è piaciuto. Quindi paradossalmente si impara anche dalle persone che non sanno fare bene il loro lavoro, o che perlomeno non lo fanno nel modo che piace a te, quindi alcune volte è assolutamente soggettiva la cosa. E quindi da tutti mi sono ritrovato a fare delle cose e dire: caspita, ma vedi quando ho fatto quel film, vedi questa idea nasce da quello forse, ecco, quindi un po' da tutti. Ecco, dicevi prima, mi sono reso conto che è una cosa bellissima. Cosa ti è piaciuto particolarmente? Il fatto di riuscire a costruire un mondo che non esiste, cosa che normalmente fai da attore, no? Dai vita a un personaggio e alcune volte costruisci anche quello che c'è intorno a questo personaggio. Il film costruisce un punto di vista, quindi non solo si dà vita a delle persone, a dei mondi, ma si costringe anche il pubblico a guardarli dal tuo punto di vista, e credo che sia l'atto più alto che si possa avere uno che vuole fare questo mestiere. Senti, tu sei fiducioso, sei ottimista sullo stato di salute del nostro cinema, che nella commedia negli ultimi anni ha trovato proprio, ce l'ha sempre avuta per carità, ma ha trovato proprio i suoi motivi di maggiore successo? Io credo che, come spesso accade, quando ci sono momenti difficili sociali e economici come quelli che stiamo attraversando, evidentemente la commedia è un modo che può spingere delle persone a spendere del denaro che casomai non ha o ne ha poco, e deve quindi controllare bene come usarlo, centellinarlo. E quindi l'idea di poter avere la possibilità di dare un sorriso, un punto di vista ironico, certe volte la commedia ti aiuta a guardare con ironia anche il problema, quindi non è detto che bisogna ridere a crepapelle, però certe volte è fondamentale cambiare punto di vista. Torniamo al discorso di prima. Grazie. Grazie a te. E allora Maurizio Casagrande ci ha raccontato il suo progetto, il suo esordio alla regia, Una donna per la vita, commedia da Casagrande, commedia anche da Sergio Castellitto, uno degli attori / autori più colti, ricercati, raffinati del nostro cinema, molto richiesto anche all'estero. Sergio Castellitto sarà protagonista intenso della prossima stagione cinematografica, con due film, due progetti molto importanti, uno dei quali molto personale, di cui si parlerà probabilmente molto. Stiamo parlando di Venuto al mondo, film diretto dallo stesso Castellitto, che rimette insieme un cast Fast con Penelope Cruz, ma anche con Emil Hirsch, attore che aveva folgorato tutti con Into the Wild. E allora cast internazionale messo insieme, dicevamo, da Sergio Castellitto, a servizio di una storia targata ancora una volta Margaret Mazzantini. Quindi, come dire, ancora una volta c'è un feeling che va oltre la vita personale fra Castellitto e la sua compagna di una vita. Questo il progetto, diciamo, drammatico, ma c'è anche un progetto di commedia anche per Sergio Castellitto, un film che porta la firma di Paolo Genovese. Paolo Genovese che, dopo il doppio successo di Immaturi e Immaturi 2, firmerà appunto per la nuova stagione Una famiglia perfetta. Cast anche qui corale: Claudia Gerini, Marco Giallini, Francesca Neri, ma soprattutto Sergio Castellitto, che ci parla così dei suoi nuovi progetti. Sergio Castellitto, intanto grazie per essere qui con noi. Queste interviste ovviamente sono interviste senza avere visto i film e sono prospettive, no? Quindi prospettive estive verso l'autunno, potremmo chiamare. E tu, ho visto, hai un autunno impegnato, diciamo così, a livello di grande schermo, perché sei con il tuo nuovo film da regista venuto al mondo, ma sei anche in una commedia come attore, sempre distribuita da Medusa, mi pare si intitoli La famiglia perfetta. Una famiglia perfetta. E anche quella mi incuriosiva molto, ho letto quattro righe di trama. Allora ti chiedo, innanzitutto di cominciare dal tuo nuovo sforzo da regista. È un film, per quanto oggi possa sembrare difficile che un film sia atteso, è un film molto atteso, perché c'è dietro una matrice letteraria importante, c'è un pubblico che lo aspetta e c'è la tua storia precedente. Allora ti chiedo innanzitutto di partire da qui, da questa attesa e da questo, da questa squadra che tu hai riformato. Penelope Cruz stavolta hai aggiunto un fuoriclasse, uno straniero di grande eccezione come Emil Hirsch. Beh, insomma, l'avventura è stata straordinaria in tutti i sensi. L'avventura comincia con il libro, con la stesura del libro, con il romanzo, con il viaggio che Margaret fa a Sarajevo, poi torna e comincia a scrivere questa storia pazzesca. La scrive in uno o due anni, insomma, di fatiche davvero abbastanza forti. Insomma, è un libro da cui lei è uscita affaticata, davvero affaticata. Il libro ha il successo che ha, credo che abbia venduto fino ad oggi intorno alle 800.000 copie, cose, insomma, cifre molto forti per l'Italia, vince il premio Campiello e così via. Ma non per questo noi pensiamo al film, noi ci abbiamo pensato al film da subito, in realtà. Io ho subito pensato a questa possibilità straordinaria che avevo di mettere in scena una storia che potesse abbracciare 25 anni di vita di una persona, insomma, perché il film comincia negli anni 80 con le Olimpiadi invernali di Sarajevo e arriva fino ai giorni d'oggi. Un film che racchiude una serie di temi straordinari, perché sono la maternità, e sappiamo oggi per esempio quanto sia delicatissimo il tema della maternità e della, e come dire, della ricerca della maternità da parte di molte donne. Contemporaneamente è una storia d'amore profondamente sensuale, direi anche erotica in tutti i sensi, negata appunto da questa infertilità che questa donna scopre di avere. E poi c'è questo viaggio, dopo tanti anni questa donna riparte, chiamata da un suo grande amico del passato, torna a Sarajevo con questo suo figlio, chissà, suo figlio, e scopre un segreto. È anche il segreto, è l'altro elemento fondamentale di qualsiasi trama, di qualsiasi plot, di qualsiasi storia. Questo e tante altre cose il film. Senti, ti chiedo perché Emil Hirsch, attore versatile, attore estremo in un certo senso, no? Io ho sempre pensato a Emil quando pensavo a quel Diego. Una volta che avevo deciso in qualche modo di internazionalizzare il film, cioè quel Diego nel libro è un ragazzo genovese e io volevo farlo diventare un fotografo inglese, americano e quant'altro, avevo visto come molti Into the Wild, ero stato fulminato dalla bellezza del film e dalla straordinaria performance di Emil, di questo ragazzo di 22-23 anni a quel tempo, dotato di una qualità quasi preistorica nella recitazione, insomma, quasi una essenzialità, una semplicità e una profondità che mi avevano veramente emozionato, commosso, colpito, una specie di Cristo barbone, Cristo clochard che ha attraversato la sua vita, la sua giovinezza, non ha fatto in tempo ad attraversare la sua vita. E, perché io ho sempre pensato a lui, gli ho scritto, gli ho mandato il copione, gli ho detto questo è un biglietto aereo, vieni che ci conosciamo, è venuto, ci siamo conosciuti, ci siamo voluti bene. Emil sta nel film. Senti, invece l'altro film, quello d'attore, mi piace molto la premessa, perché siete una compagnia di attori che va sostanzialmente, a quanto si legge sempre dalla famosa trama, che va sostanzialmente a tenere compagnia a una persona in una festività natalizia di campagna. Sì, è questo Leone che io interpreto, che è un uomo, come dire, ricco, apparentemente, come dire, indipendente in tutti i sensi, e, ma solo. E si affitta una famiglia per non sentirsi solo, se l'affitta, e solo che la famiglia è composta da una, come dire, da una compagnia di attori. C'è un cast di attori che io adoro: Marco Giallini, Claudia Gerini, che poi sono i miei attori anche quando faccio il regista, perché sono due fra i protagonisti di Non ti muovere. Il Paolo Genovese aveva scritto il soggetto di questo film molto tempo fa, poi per una serie di cose non era mai riuscito a farlo. Poi ha fatto il suo cammino di regista, ha fatto queste commedie molto belle, molto divertenti, che sono Immaturi 1 e 2. Adesso ha voglia, si sente pronto per ritornare a quello che è un po', credo, un po' il film della sua vita. Avete una responsabilità enorme, perché avete lanciato un modello: affittare una famiglia per affittare una famiglia, insomma, no, anche in tempi di disoccupazione, magari può aiutare. Grazie. Grazie a te. Ecco Sergio Castellitto, i suoi progetti per la prossima stagione cinematografica. Si chiude questa puntata della Rosa Purpurea. Buon Ferragosto a tutti. Grazie anche a Giorgio De Luca in redazione, a Peter Bescapè che ci ha dato mano a mano in regia. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Continueremo a viaggiare per la prossima stagione cinematografica.